stato depositato già diversi mesi fa un ricorso promosso da ASGI e Naga, ovviamente in accordo con le associazioni locali, col quale si chiede come è consentito dalla norma che consente ad alcune associazioni come le nostre di agire laddove si intraveda una discriminazione collettiva, e cioè che riguarda una pluralità di persone. Con questo ricorso appunto si chiede che il giudice ordini la rimozione del regolamento comunale nella parte in cui impone ai cittadini stranieri una documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'ISE. Una documentazione con un onere che voi definite sproporzionato e inutile, ma soprattutto in contrasto con la normativa ISE. Le chiedo di spiegare questo passaggio, che forse è la chiave. Sì, in questo periodo un po' su tutti i mezzi di comunicazione la questione è apparsa soprattutto con riferimento alla difficoltà di procurarsi quella documentazione. Invece in realtà il problema non è solo, che sarebbe affrontabile secondo logica, diciamo, non è solo quello della impossibilità di andare in Sudan a chiedere un certificato catastale, ma è veramente un problema di diritto e di uguaglianza di trattamento. Cioè la normativa ISE del 2013 prevede non delle autocertificazioni, il procedimento ISE inizia sì con una dichiarazione del privato cittadino, che è la dichiarazione sostitutiva unica che chiunque trova sui moduli appunto che vengono dati dal sito dell'INPS o nei comuni o nei patronati. In questa dichiarazione non c'è alcuna differenza tra italiani e stranieri, ciascuno è tenuto a dichiarare se ha beni o redditi all'estero, sia che sia italiano sia che sia straniero, fa la sua dichiarazione. Si consegna questa dichiarazione, lo Stato, cioè gli uffici pubblici, INPS, Agenzia delle Entrate, tramite le banche dati o quant'altro, o anche all'estero tramite le convenzioni che ci sono nei diversi paesi, fa i suoi accertamenti, alla fine rilascia l'ISE, che non è quindi un'autocertificazione, è un'attestazione pubblica di qual è il livello di reddito di una persona. La norma del 2013 dice che questo metodo per accertare il livello di reddito della persona costituisce il livello essenziale delle prestazioni la cui determinazione è riservata allo Stato. È una decisione che prima non era così, è una decisione che è stata presa dal legislatore di dire come si accerta se uno è ricco o è povero lo decido io, perché quello fa parte appunto dei diritti fondamentali delle persone che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale. Se le cose stanno così non è che ogni comune può dire ah no, a me l'ISE non basta, voglio introdurre un diverso metodo per vedere se tu sei ricco o sei povero, diversi documenti, diverse procedure, non si può, è un problema di uguaglianza, e quindi su questo noi, queste sono le argomentazioni che sottoponiamo al giudice e che siamo assolutamente convinti siano fondate. Quindi nel merito di questa vicenda sostanzialmente dovrebbe essere poi lo Stato o le sue diramazioni come il comune di Lodi a fare questi accertamenti, insomma. Sì, ma nel caso sono accertamenti intanto antecedenti al rilascio dell'ISE. Alla prestazione si accede con l'ISE, la cosiddetta autocertificazione è quello che fa partire la procedura, che ripeto è di competenza dello Stato. Si inizia con una dichiarazione, si fanno gli accertamenti, alla fine si rilascia l'ISE. Lì il discorso si chiude e la prestazione deve essere erogata. Poi ovviamente ci devono essere tutti gli accertamenti del mondo per italiani e per stranieri, della Guardia di Finanza, di qualunque ufficio, per controllare ovviamente se nel rilasciare l'ISE lo Stato non ha commesso degli errori omettendo di verificare una cosa o l'altra. Certo, tutti gli accertamenti, ma di fatto così accade, no? Quanti anche italiani sono risultati aver fatto autocertificazioni anche per esempio per l'esenzione del ticket, oppure appunto di aver ottenuto un accertamento dallo Stato ma che in realtà era sbagliato. Si fanno dopo gli accertamenti, si verifica e si fanno i controlli, ma alle prestazioni sociali si accede in base all'ISE, e l'ISE è questo documento che è rilasciato dallo Stato. I comuni se ne devono fare una ragione e attenersi a questa regola. Quindi, visto che insomma i servizi cui si accede attraverso l'ISE, insomma con beneficio ovviamente attraverso l'ISE, sono molti, quello come dire operato dal comune di Lodi, da altri comuni, voi appunto ne segnalate anche altri, potrebbe essere come dire un ostacolo messo a monte per concedere questi servizi? Lo è. Esattamente un ostacolo posto ai soli cittadini stranieri per accedere a questi servizi. L'impressione che abbiamo francamente è che nel 2008-2009 qualcuno ricorderà c'era stata una campagna dei comuni di un certo orientamento politico per fare regolamenti o ordinanze o delibere con prestazioni sociali solo per gli italiani. Il famoso comune della Bergamasca aveva previsto persino un contributo per le cure del mal di denti dei bambini riservato solo ai cittadini italiani. Erano cose ridicole che tutti i giudici poi hanno hanno stroncato dicendo che non si può fare. Quella stagione per fortuna è un po' finita, adesso è iniziata questa qua nuova. Non te lo vieto, però ti chiedo delle documentazioni che rendono pressoché impossibile accedere ai servizi sociali. E intendiamoci, qui stiamo parlando solo di prestazioni sociali agevolate. Il problema dell'autocertificazione in generale, se l'Italia lo straniero lo può fare, cioè che è regolato da una legge del 2000, è tutta un'altra cosa. Qui stiamo parlando solo del procedimento per accedere a prestazioni sociali riservate ai poveri, cioè prestazioni sociali collegate al reddito. Ecco, per queste si è scoperto questo nuovo metodo che secondo alcuni comuni consentirebbe di, e ci sono state dichiarazioni addirittura di sindaci tempo fa che dicevano, ricordo il sindaco di Voghera di allora che diceva, grazie al mio metodo abbiamo eliminato un sacco di richiedenti stranieri. Quindi la finalità iniziale è stata esattamente questa, ma si basa su una interpretazione normativa a mio avviso errata, oltre a essere estremamente discutibile dal punto di vista della giustizia sostanziale.